tra un 3-7 e un giro di do. Ho i capelli bianchi e voglio dirti che respiro ancora. Dirmele anche tu, ma oggi tocca a me. I tuoi bigodini son diversi, il tuo grembiule a fiori sa di pesche, le tue guance rosse mi riportano quel tango d'inverno. Io mi arrabbio se manca del sale, ti innervosisci se non ti porto al mare. La nostra storia è come colazione, perché anche se uguale essenziale.